dicono sempre le nonne e lo ripetono le mamme, esclameranno le figlie domani. Che tempi nella mia giovane età, era il tempo in cui Berta filava, filava, filava, ed il cuore sognava. Oh, come sognava, oh, come sognava. Ed intanto che Berta aspettava, aspettava, aspettava, il tempo passava. Oh, come passava, cosa succederà? Se qualcuno combinazione bussava giù dal portone col cuor che batteva in grande ansietà, trepidante dalla paura guardava dalla fessura dicendo chissà, chissà chi sarà. Era il tempo in cui Berta filava, filava, filava, ed il cuore sognava. Oh, come sognava, quando verrà l'amor. Nel mondo senza scompiglio, forse si stava assai meglio, con lumicina, petrolio ed un fior, che bello donare un bacio d'amore. Pian pian bel bello, intanto che stavano tutti a dormire, a cavallo del suo cavallo, avvolto nel suo mantello, l'amante l'andava infine a rapire.